Lo stato originario. Il libro della Genesi rappresenta lo stato originario come una situazione di amicizia e familiarità dell'uomo con Dio, unita al dominio sull'universo materiale proprio in virtù di questa vicinanza al Signore. L'uomo, creato ad immagine e somiglianza di Dio, godeva di una speciale armonia, poiché la sua anima era soggetta al Padre, il corpo era soggetto all'anima e le forze inferiori dell'uomo erano soggette a quelle superiori. Sicuramente l'uomo era anche allora in cammino, viator, cioè capace di peccare, e quindi aveva bisogno di fede. Ma tutto ciò non gli richiedeva un particolare sforzo. L'interpretazione tradizionale che la Chiesa dà del testo della Genesi presenta i progenitori nello stato di grazia iniziale, dotati di doni preternaturali, cioè l'esenzione dal male e dalla morte, e l'integrità del proprio essere. Essi non conoscevano quindi né il male né la morte. Tali prerogative sono dette doni preternaturali, poiché corrispondono alla perfezione della natura umana, pur rimanendo doni della grazia. L'uomo non soffriva, dominava tutto ciò che gli poteva infliggere danno, perché tutto era in armonia. Non solo era assente il dolore fisico, ma anche quello morale e spirituale. Inoltre, Dio illuminava in modo particolare l'intelletto dell'uomo, che conosceva la realtà in modo da poterla dominare e custodire. L'uomo provava chiaramente sensazioni e passioni perché aveva corpo. Esse, che sono in sé positive o indifferenti, divennero pericolose quando per il peccato persero la loro sottomissione alla ragione e quindi si indebolì la percezione del loro rapporto con il fine e il senso. Il cuore umano divenne torbido e le passioni iniziarono a servire la concupiscenza. Il corpo divenne opaco all'anima in una sovversione che antepose la dimensione materiale e animale a quella personale. Prima del peccato l'uomo era immortale, non nel senso che non poteva morire, non posse mori, cioè in modo assoluto e permanente, ma nel senso che la sua fedeltà a Dio lo preservava dalla morte. Posse non mori, secondo l'espressione agostiniana. Ma come sarebbe stata la vita se Adamo ed Eva non avessero peccato? Una vita senza decadimento biologico non sembra umana. Per Origene tutto era semplice, poiché pensava che l'uomo fosse come un angelo e che la vita nel mondo materiale fosse una punizione per il peccato originale. Ma per la dottrina cattolica è ben diverso. Il mondo materiale è voluto da Dio e parte integrante dell'umanità. Sicuramente l'uomo, come gli angeli, è stato creato per una prova, prova che implica la libertà e quindi l'amore. Se Adamo non avesse peccato, la fine della prova non sarebbe stata tragica e drammatica come ora. Per alcuni autori, semplicemente lo stato di grazia originario implicava un'assenza di paura della morte, ma questa interpretazione psicologica è troppo debole e non sembra conciliarsi con i dati scritturistici e magisteriali. Alcuni autori ritengono che il dono paradisiaco dell'immortalità debba essere interpretato come promessa di una trasformazione interamente gratuita alla fine della vita terrena, con l'esclusione di ogni paura della morte. Forse la luce più chiara su questa condizione viene dalla vita di Maria, priva di peccato originale, che fu assunta in cielo in corpo e anima alla fine dei suoi giorni. In Genesi 2:15-17 si dice chiaramente che Adamo fu sottoposto ad una prova. Poteva mangiare di ogni albero del giardino, ma non dell'albero della conoscenza del bene e del male. Questo albero è collegato alla vita e a livello teologico significa che l'uomo era chiamato a riconoscere il limite della sua creaturalità. Quindi la prova aveva una dimensione di vocazione alla libera apertura a quel logos che fonda l'esistenza dell'uomo e il logos umano stesso, ricevuto nell'immagine divina. L'uomo era chiamato a riconoscere il dono come immagine dell'immagine, cioè di Cristo che è immagine del Padre. Ma l'uomo, per così dire, ruppe lo specchio. Questo atto è un evento reale, un fatto storico che ebbe luogo all'inizio della storia umana, sebbene il contesto della narrazione scritturistica possa sembrare simbolico o mitico. L'atto fu umano e libero, e per questo storico. Il peccato non è conseguenza necessaria della creazione stessa, non è attribuibile al creatore. né si tratta di un peccato in senso allegorico o metaforico, ma di un evento reale. Non si può parlare quindi di una spiegazione mitica dello stato di imperfezione nel quale si trova l'uomo, come affermano alcuni teologi protestanti sulla scia di Lutero. Alcuni autori hanno sviluppato questa concezione in senso ottimistico, parlando del peccato originale come condizione di immaturità cosmica e povertà esistenziale, che verrebbe superata da un progresso metafisico continuo, Teilhard de Chardin, Kant, Lessing. Si ritornerebbe così all'idea platonica di creazione come ordine introdotto da un demiurgo nel caos originario. La tragedia di questa interpretazione è che il male acquista una consistenza propria e Dio ne diventa responsabile. L'uomo, col peccato, ha preferito se stesso a Dio, perdendo lo stato di santità e la destinazione a essere divinizzato. Ha voluto diventare come Dio, ma senza Dio. Cosa assurda, come il volere essere figli senza un padre. Così ha perso l'amicizia divina, cioè la grazia, e con essa si è esposto alla condanna e all'ira di Dio. Non si tratta solo di una disobbedienza ad un comandamento estrinseco, ma della spoliazione, della privazione del favore divino attraverso la negazione della propria relazione con il Creatore. Basta pensare a questo per comprendere che atto di ingiustizia e di ingratitudine sia stato il primo peccato. Si tratta di una vera e propria caduta nel non essere. Essa consiste nella rottura di quella relazione attraverso la quale si ricevono l'essere e la vita. Rottura che ha come primo effetto terribile la perdita del dono dell'immortalità. Da allora la morte è entrata nella storia dell'umanità. L'uomo possedeva una natura mortale, legata al limite creaturale, ma Dio l'aveva destinato a non morire, rimanendo unito a lui, a vivere per sempre nella relazione personale con il Creatore. La morte riassume tutti gli altri effetti della caduta. Con la morte entrò nell'uomo il dolore. La Scrittura lascia ben chiaro questo punto. Basti pensare alla cacciata dal paradiso, Genesi 3:19-23, e alle successive affermazioni del Libro della Sapienza. Dio non ha creato la morte, Sapienza 1:13. Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, lo ha fatto immagine della propria natura. Ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. Sapienza 2:23-24. Anche in Romani 5:12 si dice chiaramente che la morte è entrata nel mondo per un solo uomo, Adamo, e così anche la salvezza, grazie a Cristo. Con il peccato l'uomo ha fatto causa comune con il regno della caducità, rimanendo ad esso sottomesso. In qualche modo si è assoggettato alla logica delle cose, dell'identità numerica, dell'1 più 1 uguale 2. Tutto diventa oggetto agli occhi del peccato, ma le cose non sono persone. Una pecora è uguale ad ogni altra pecora e non cambia nulla nella creazione se viene sostituita da un'altra. Per l'uomo non è così. Ogni persona è unica e può cambiare la storia con le sue decisioni. Nella sua capacità ad amare è insostituibile. Joseph Ratzinger ha sottolineato come per gli ebrei la morte e la malattia fossero fondamentalmente legate alla rottura della comunicazione, come isolamento. Questa rottura della comunicazione e dell'armonia coinvolge anche la natura che si ribella all'uomo, il quale è stato tratto dalla polvere e deve tornare ad essere polvere, Genesi 3:17-19, per avere scelto questa degradazione liberamente. Così la stessa creazione geme e soffre per il peccato, Romani 8:19-22. Un altro effetto del peccato originale è l'essere diventati schiavi del diavolo, per il fatto di aver abbandonato la protezione del padre ed essere caduti perciò sotto il dominio del più forte. Di questo parla Gesù quando chiama i farisei figli del demonio che è stato omicida fin dal principio e vuole la morte, Giovanni 8:44-45. Nella lettera agli ebrei si dice che questa schiavitù è legata alla paura della morte, Ebrei 2:14-15. Altro effetto è il danno inferto a tutto l'uomo, nell'anima e nel corpo. La natura umana è stata ferita nel più profondo, fino alle interiori disposizioni della ragione e della volontà. l'uomo è stato sconvolto, il suo intelletto offuscato e la sua volontà indebolita. È importante notare che questo effetto non è assoluto, come pensava Lutero, perché non si tratta di una totale corruzione. L'uomo è ferito e senza grazia non può avvicinarsi da solo a Dio, ma non pecca in tutto ciò che fa. Per questo i valori autenticamente umani rimangono cammino valido per tornare a Dio. Una persona capace di lealtà e di laboriosità o una persona educata al gusto della bellezza è meglio disposta alla conversione, anche se la grazia può superare qualsiasi ostacolo nelle disposizioni dell'uomo, perché Dio può trarre figli di Abramo dalle pietre. Matteo 3:9, Luca 3:8. Un ultimo effetto del peccato originale è la concupiscenza, che, come visto, non è peccato, ma può essere all'origine del peccato nel momento in cui viene accolta, permessa o provocata.